Ho sempre letto con un certo imbarazzo l'ordine di Dio in merito al parlare e che trovavo difficile da comprendere. Questo comandamento è riassunto in due espressioni dell'Apostolo Paolo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. Colossesi 4, 6. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Efesini 4 e 29. Avrei potuto sorvolare su questi due comandamenti se non ci fossero state due parole che non ammettono eccezione, sempre e nessuna. Cioè parlare sempre con grazia e nessuna parola malvagia esca dalla bocca, ma conferire grazia. Perciò mi sono chiesto, io parlo sempre con grazia. Trasmetto sempre grazia a chi mi ascolta. Sono interrogativi alquanto imbarazzanti. Perciò mi sono posto altre domande. Quando il mio parlare è con grazia? Quando ciò che dico aggiunge grazia al mio interlocutore? È evidente che rispondo a tali domande quando comprendo il significato del termine grazia e solo allora posso sapere se parlo sempre con grazia e se trasmetto grazia al mio ascoltatore. Secondo il vocabolario, il termine grazia si riferisce a quella qualità naturale di tutto ciò che, per una sua intima bellezza, delicatezza, spontaneità, finezza, leggiadria, o per l'armoniosa fusione di tutte queste doti, impressiona gradevolmente i sensi e lo spirito. In definitiva, secondo il vocabolario, la grazia è sinonimo di gentilezza, cortesia, buone maniere nei rapporti con gli altri. Garbo. Questo è quanto si pensa comunemente. Proprio perché il termine grazia è riferito, secondo la nostra cultura, ad un comportamento, abbiamo espressioni come «fatemi la grazia», cioè una cortesia. «Ho avuto una grazia», cioè un favore, un piacere. «Possiede ogni grazia», cioè vive nel benessere. In questo modo, la grazia per noi è un modo di fare, di agire, di essere. In merito, non posso nascondere che per la mia irruenza giovanile spesso mi è stato detto che se c'era una cosa che non avevo, era proprio la grazia, e che per il mio impeto ero come un elefante in una cristalliera, o, secondo una espressione piemontese, un bue che si muove in mezzo al grano. Devo confessare che questo punto di vista mi è sempre sembrato stonato. Dare al termine grazia un simile significato mi impediva pure di comprendere altre espressioni della Scrittura. Una di queste la troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1. E la parola si è fatta carne, ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia, sopra grazia. Giovanni 1, 14, 16. Interpretare che Gesù sia stato pieno di grazia, cioè pieno di garbo e di dolcezza, mi sembra fuori luogo. Per due volte Gesù ha preso in mano la sferza e ha cacciato dal Tempio i venditori di colombi e i cambiamonete. Più volte Gesù ha imputato ai farisei di essere degli ipocriti, al punto da farli arrabbiare. Spesso provocava di proposito i religiosi guarendo gli ammalati in giorno di sabato, creando in questo modo occasioni per litigare e costruire un muro, anziché un sereno dialogo. Altre volte Gesù non rispondeva e negava delle richieste. Possiamo noi dire che Gesù abbia sempre avuto grazia secondo il senso che noi attribuiamo a tale vocabolo? Non ci sono altre alternative. O Gesù non è sempre stato pieno di grazia, oppure noi abbiamo un concetto errato del termine grazia. E che dire che i figli di Dio che hanno ricevuto grazia sopra grazia, coloro che hanno posto fede in Gesù, hanno ricevuto veramente il dono di essere gentili, cortesi, pieni di buone maniere nei rapporti con gli altri, ricolmi di atteggiamenti con garbo? Dubito, fortemente. Inoltre, com'è possibile pensare alla grazia nei termini dettati dalla nostra cultura? Quando un uomo di Dio come Mosè spezzò le tavole della legge, e quando Elia manda del fuoco dal cielo per far bruciare le persone. È evidente che qualcosa ci sfugge, è evidente che abbiamo ancora una volta interpretato una parola biblica secondo la nostra cultura. Così, mettendo ancora una volta in pratica la regola che la parola di Dio deve essere interpretata secondo la parola di Dio e che dobbiamo conoscere il significato originale delle parole, prendiamo in esame il termine grazia in greco. Il termine grazia in greco è charis, che significa favore, ringraziamento, benevolenza, ricompensa. La parola grazia deriva dalla radice greca char, la quale indica tutto ciò che produce benessere. Infatti da questa radice in greco si sono formate altre parole che hanno questo obiettivo, carisma, cioè un dono dato per bene. Perciò, secondo il termine greco, la parola grazia è usata per esprimere il concetto di ciò che produce o genera del benessere tra gli uomini. Questo aspetto capovolge totalmente il concetto che noi abbiamo del termine grazia. Mentre per noi il termine grazia è riferito ad un atteggiamento, al comportamento di una persona, la scrittura usa il termine grazia per indicare tutto ciò che produce del bene al prossimo. Risulta quindi che la grazia non sia una forma, ma il risultato di un atteggiamento. Questo aspetto è un vero impatto alla nostra cultura. Da aggettivo, il termine grazia diventa un sostantivo. Da modo di agire diventa la conclusione. Ecco perché la scrittura afferma che Gesù era pieno di grazia. Il Figlio di Dio, quando era sulla terra, non si è comportato soprattutto come un uomo pieno di gentilezza, di cortesia, di buone maniere, anche se il suo rapportarsi con il prossimo è stato unico. Ma la scrittura mette in enfasi che il comportamento di Gesù ha riversato ovunque e sempre del benessere. Così è pure per i figli di Dio. Ogni persona che ha posto fede nell'opera sostitutoria di Cristo ha ricevuto dalla pienezza della grazia di Cristo ogni grazia, cioè ogni tipo di dono dispensato benevolmente affinché ne faccia parte agli altri per il loro bene. E in questo senso che dobbiamo intendere il comandamento di parlare sempre con grazia e di conferire sempre grazia al prossimo. Il comandamento non è inteso a indurre i figli di Dio ad essere gentili, garbati, educati, anche se la grazia produce simili comportamenti, ma impone a coloro che hanno creduto in Cristo di comportarsi in modo tale che il prossimo ne sia edificato. Questo obiettivo ribalta l'ottica comune di cercare il mezzo anziché il fine, e questo perché si può essere educati, gentili, e non edificare il prossimo, mentre si possono evadere i canoni del buon comportamento nei rapporti sociali e comunque produrre del bene a chi ci ascolta o ci vede. Sono i religiosi formali che si preoccupano della forma, al pari dei farisei al tempo di Cristo, ma un figlio di Dio sincero, desideroso di procurare il bene al prossimo, guarderà più il risultato, o ciò che procura il suo parlare, o agire. Dobbiamo riconoscere che per una nostra inclinazione naturale noi tendiamo più a cercare la forma che la sostanza. Noi mettiamo la nostra coscienza a tacere quando sappiamo di esserci comportati bene, quando secondo noi abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, ma anche se ciò è utile e doveroso, non deve però essere lo scopo della nostra vita. Una differenza culturale tra quella giudaica e gentile, cioè coloro che non sono giudei, è che mentre i gentili si chiedono il perché di una data azione, i giudei si chiedono cosa produce un simile comportamento. Se tutti avessimo l'atteggiamento della cultura giudaica nei confronti del prossimo, chiedendoci che cosa produca una data azione o un certo parlare, molti problemi nei rapporti con il prossimo verrebbero risolti. Se anziché essere compiaciuti del nostro formale moralismo, esaminassimo le reazioni del prossimo, avremmo la grazia di cui parla la parola di Dio. Se un coniuge, anziché essere soddisfatto di aver agito o parlato bene, si mettesse in discussione perché l'altro è rimasto offeso, non ci sarebbero incrinature nel matrimonio. Se nella comunione fraterna si avessero più attenzioni verso i fratelli, avremmo meno sensi di soddisfazione per aver parlato in modo ineccepibile. Dobbiamo rimarcare la verità che si può avere un comportamento di santità ed essere molto lontani dalla volontà di Dio. L'importante non è ciò che facciamo o quello che diciamo, anche se è importantissimo avere un comportamento etico irreprensibile. ma l'indispensabile è produrre grazia, cioè benessere al prossimo. I credenti di Corinto parlavano in lingue, cosa più che lecita, ma se non c'era che interpretava, illecito non edificava. Ogni credente è chiamato a vivere secondo la propria coscienza, ma quando questa crea turbamento al prossimo, illecito diventa illecito. Il carisma, cioè il dono che abbiamo ricevuto, è tale solo quando edifica la Chiesa. Non vale solo ciò che facciamo, ma anche ciò che creiamo nel prossimo. Paolo lo ha detto molto chiaramente: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa edifica. 1 Corinzi 6 e 12 e 10 e 23. Dobbiamo uscire fuori dal nostro mondo di perbenismo, dobbiamo smettere di avere una visione egocentrica, dove ogni cosa gira attorno a noi e per noi per puntare il nostro obiettivo verso il prossimo, e guardarlo non come uno strumento di piacere o parafulmine per parole di troppo o inadeguate, ma come una sfida per riversare su di lui parte del benessere che abbiamo ricevuto dalla pienezza della grazia di Cristo. Dunque, che nessuna parola offensiva esca dalla nostra bocca, ma se ne abbiamo una buona che edifichi, secondo il bisogno, diciamola, affinché conferisca benessere a quelli che ci ascoltano. Che Dio ci dia la grazia di avere sempre grazia in tutto. Ottobre 1980. Ellero.